Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Devo dire che è difficile incontrare una persona totalmente soddisfatta, una persona radicalmente realizzata. Una persona che sembra, anche se non certo una fanciulla in fiore, ma una bella donna, diciamo di mezza età, che sembra che in quel momento il raggio di sole che entra dal finestrino del treno e sembra fugacemente cogliere casualmente uno dei tanti passeggeri, vada a illuminare proprio lei, perché lei in quel momento rappresenta una vita realizzata. Ma per esperienza so che dietro ogni vita apparentemente realizzata spesso c'è un calvario molto doloroso che non posso fare a meno di conoscere. Quanto fa parte il viaggio della tua vita? Che tipo di viaggi fai? È una cosa molto importante per me, che non sono mai riuscita a fare da bambina, da ragazza, perché prima non avevo soldi, arrivo da una famiglia molto molto modesta, in più ho avuto un padre dittatore che non mi ha fatto fare mai nulla, e ora che sono adulta, ho dei soldi, riesco a fare quello che non ho fatto da giovane e da sposa. Ecco, da bambina quanto ti mancava? Da ragazza ti mancava molto poterti muovere? Perché un padre dittatore? Cosa ti imponeva tuo padre? Perché mio padre è stato un padre molto molto severo, molto impegnativo, insomma ancora oggi faccio fatica quando lo penso, ora purtroppo non c'è più, a ricordarmelo in un modo bello, insomma. È stato un padre, è una storia molto difficile da raccontare, però è stato un padre anche violento verbalmente, spero che mi ascoltino i miei parenti. Insomma, è stato un padre per me difficile, che ancora oggi faccio fatica a... Però era di vecchia generazione, una volta, diciamo, fino a una generazione fa più o meno i padri si comportavano così, non è che c'era un rapporto molto familiare o amichevole con i figli. Io ricordo un padre non violento, ma non ricordo gesti di tenerezza io di mio padre, non so se tu li ricordi, se guardo la mia memoria un gesto di tenerezza nei miei confronti, ma nemmeno da bambino, non me lo ricordo. Sinceramente pochissimi, sono molto offuscati. Mi ricordo che io abitavo in un piccolo paesino, andavamo tutti gli anni, mio fratello ci portava a raccogliere i fiori, ecco, questo è un bel ricordo, ecco, quando era il periodo delle primule, delle viole e dei ciclamini, partivamo tutti e tre e andavamo alla ricerca di questi fiori. Questo è un bellissimo momento che non dimenticherò mai, però sono stati più momenti da bambina e adolescente, più da adolescente, difficili, ecco. Ma non è che lo faceva magari perché pensava che quella era la maniera migliore per salvaguardarti, per tenerti lontana dai pericoli? Ma non lo so, specialmente quando sono diventata una ragazzina, gli amici uscivano, io non potevo uscire, io se uscivo dovevo tornare a una certa ora, cioè non sono stata padrona della mia adolescenza. è abbastanza frequente questo, mi rendo conto che è doloroso. Chi ha le famiglie più restrittive vede i compagni più liberi e si consuma nell'invidia degli altri, cioè gli altri possono star fuori, possono uscire, fanno tante cose che a me non sono permesse. Per me è stato difficoltoso. Dimmi una difficoltà grossa, quando un momento tu avresti voluto fare qualcosa che non potevi fare, cosa era? Io ho vissuto l'epoca degli anni 70, i miei 16 anni della disco music. Mi è sempre piaciuta la musica, lo sport e il ballo. Fino a 18 anni non sono mai potuto uscire una sera, mai. E di pomeriggio dovevo sempre rientrare alle ore 18 a casa. Sono sempre uscita con la paura del ritorno a casa. È stata una paura costante che mi ha portato ad avere paura di tante cose fino a età adulta. Quindi immagino che tu non potevi nemmeno avere un fidanzatino, un ragazzo, una passione. Ma più che quello, proprio non sono stato proprio geloso. Una sera mi ricordo, non mi vergogno anche di Roma, io ne ho parlato con lo psicologo. Vabbè, ormai diciamo. Sono uscita di sera senza dirgli nulla, non mi ricordo, avrò avuto 16-17 anni, poi abitando in una zona di mare, la sera ci usciva, sono uscita al ritorno, saranno state 11. Non ti dico quello che è successo dal garage che mi ha tirato per i capelli fino alla porta di casa, insomma le ho prese, ecco. In quel momento ho pensato, no fratello, mi viene anche da piangere, scusa. Vabbè, lo so, non ti voglio tirare fuori ricordi dolorosi. No, perché sono ricordi che ho tirato fuori ultimamente, perché sono sempre tenuti un po' nascosti. Insomma, ho avuto un momento. Però allora parliamo della liberazione. Quando è che ti sei riuscita a liberare da questo padre che in fondo invadeva i tuoi spazi legittimi? Ma liberare, quando poi mi sono fidanzata, ho cominciato a allentare la presa, e poi quando mi sono sposata. Anche perché eri maggiorenne, dopo 18 anni non è che poteva più tanto. Ma fino a 18 anni, guarda, niente, ma anche dopo. Considera che io ho preso la patente, non ho mai potuto comprare la macchina. Perché finché abitavo lì dovevo usare la sua, però la sua non la potevo usare perché dovevo far pratica con lui e lui si arrabbiava verbalmente in un modo terribile, perché anche le violenze verbali sono pesanti, tantissimo. Sei riuscita quindi tu, quando ti sei staccata da casa, dalla casa madre? Mi sono staccata dalla casa madre sui 30 anni, sono andata a abitare fuori in un'altra cittadina. E lì insomma ho cominciato anche a respirare, però ho sempre avuto il timore un po' di questo padre, anche nonostante che mi sia... Cioè ti seguiva a distanza al senso di colpa? No, io non ho il senso di colpa, mi sento adesso il senso di colpa, forse perché è stato molto male e sono riuscita solo una volta a dirgli ti voglio bene, ma con una gran fatica. I make all these plans with friends and hope they call and cancel. Then I overthink about the things I'm missing. Now I'm wishing I was with them. Feel like I'm always apologizing for feeling like I'm out of my mind when I'm doing just fine. My exes all say that I'm hard to deal with, and I admit it. Yeah, but all my friends, they don't know what it's like, what it's like. They don't understand why I can't sleep through the night. Something to fix it, damn, I wish it was that simple. All my friends, they don't know what it's like, what it's like. Always wanted to be one of those people in the room that says something and everyone puts their hand up. Like if you're sad, put your hand up. If you hate someone, put your hand up. If you're scared, put your hand up. Feel like I'm always apologizing for feeling like I'm out of my mind when I'm doing just fine. And my exes will say that I'm hard to deal with, and I admit it. It's true. But all my friends, they don't know can't sleep through the night. And I thought that I could take something to fix it. Damn, I wish it was that simple. All my friends, they don't know what it's like, what it's like. I got all these thoughts running through my mind all the damn time, and I can't seem to shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I think that I'm alright, but I can't seem to shut it off. I got all these thoughts running through my mind all the damn time, and I can't seem to shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I say that I'm alright, but I can't seem to shut it off. Noi signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Più abituati ad essere giudicati che a giudicare, gli studenti italiani si dimostrano indulgenti nei confronti dei loro docenti alle prese con la didattica a distanza. 9 ragazzi su 10 promuovono l'operato dei loro prof. Circa 1 su 3 ha rivalutato in positivo l'idea che aveva del proprio insegnante. Lo dice un sondaggio di scuola.net realizzato per Radio 24, dal quale emerge che comincia a serpeggiare la nostalgia. Spero di rivedervi presto, scrive un ragazzo. Grazie per averci messo al primo posto, aggiunge un altro. Sono Maria Piera Ceci e vi aspetto lunedì 13 aprile dalle 10 con uno speciale di Verso il futuro e oltre. Naturalmente su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. È importante però queste cose che ce le diciamo, perché chi è nella condizione di genitore deve rendersi conto tante volte quando anche la buona fede di far qualcosa per i figli, per salvaguardarli, per riservarli, per preservarli, e poi compromettergli in maniera radicale la vita e la maniera anche di concepire la vita. Cioè tu fino a 30 anni hai vissuto praticamente con una bambina in famiglia, quindi a questo punto. Sì, sì, insomma, dai 25 anni in su molto molto meno, ma poi quando il mio ex fidanzato andò per il militare, anche lì che avevo riacquistato la libertà, però quando uscivo, dove andavo, sempre la paura del ritorno a casa. E quando è finita questa paura? Quando sei vissuta da sola finalmente? La mia paura è finita quando poi mi sono sposata, sono andata a abitare fuori, però ti faccio un esempio, so, me ne andavo al mare con mia figlia, oppure mia figlia non c'era, andavo a mangiare dai miei. Se erano già le 8:05, mi veniva già il patema che mio padre aveva detto, adesso le 8, noi mangiamo le 8, quella paura sottile che io l'ho sempre avuta. E ancora oggi sono timorosa con alcune persone, me la porto ancora dietro. Beh, poi finalmente è arrivato una storia tua personale e hai fatto famiglia per conto tuo, ti sei sposata. Sì, ho fatto famiglia per conto mio, sono andata in un'altra città, ho avuto una bambina, però anche questa famiglia è terminata. purtroppo anche lì Però diciamo il momento di passaggio è stato liberatorio, finalmente che non dipendevi più da un padre, ma sì, perché finalmente però sono passata da una liberazione del padre a un marito dove anche lì potevo fare quello che volevo, però c'erano delle regole. Forse ora sono veramente libera, da quando li sono sempre. Cioè ti sei scelto un marito che più o meno sostituiva la figura del padre alla fine? No, questo no, non è stato un marito padrone, però una persona molto chiusa. Cioè quello che mi è mancato tanto nella mia vita è l'affetto. Però come vedi ci sono dei tratti di similitudine, non è che hai scelto quello che compensava quello che ti era mancato. Sì, mio marito non era affettuoso con me, assolutamente. Mi è mancato tanto l'affetto, mi manca. E non sono affettuosissima neppure io, forse per quello che ho vissuto. Vabbè, sai, è un po' difficile inventarselo poi quando sei grandi, l'essere affettuosi. E quindi la seconda liberazione quando è avvenuta? Quando è finito il matrimonio? La seconda liberazione è avvenuta quando io mi sono separata, lì ho sofferto, è stato anche in coincidenza con una brutta malattia che io ho avuto e fortunatamente sono ancora qua. Ma sono ormai 4-5 anni che ho fatto questa libertà, però sempre un po' offuscata dal parentado che mi circola attorno, una madre, un fratello. C'è qualcuno che sta a sindacare cosa faccio, cosa non faccio. Però questo è drammatico, però scusami, perché ormai non sei più una figlia di famiglia, non sei più nemmeno una moglie, è la tua vita, una figlia che penso che ormai sia grande da quello che mi racconti. C'è mia figlia che sta a Londra, è una bravissima ragazza, sono contenta. E ancora senti questa morsa della famiglia? In che maniera la senti? C'è questa morsa perché quando poi ho superato il dolore del tumore, il dolore della separazione, finalmente ho i miei soldini dove mi faccio dei bei viaggetti ogni tanto, ma anche all'estero da sola, mi sveglio quando mi pare, cucino se ne voglia, non c'è nessuno, scusa il termine, di rompere le palle. Però quando vado da qualche parte, dove vai? Sei sempre in giro, ma perché? C'è sempre qualcuno. C'ha da dire la sua Ma qualcuno familiare, sta parlando di familiare? Certo, mio fratello e mia madre. Cioè, tuo fratello, scusa, ma non si chiede l'età a una signora, penso che tu abbia passato l'età dell'adolescenza da tanto tempo. Tuo fratello che c'entra con la tua vita? Sì, tantissimo. E ma che c'entra con la tua però vita? Però sono una persona che le cose, insomma, non riesco a farmele tanto ciclare. Ora di più, però la mia vita è così, ma non mi manca nulla, nel senso, io sono 4 anni che mi faccio dei viaggi in solitario dall'altra parte del mondo, dalla Malesia all'Indonesia, dalle isole, dalle Americhe, vado anche in solitario, ho preso coraggio, non sapendo neanche bene l'inglese, però è una cosa che mi piace da morire, lo adoro. Cominciamo a raccontare la realtà di una persona che è liberata perché sta lontano, nessuno ti può raggiungere, nessuno ti può dire che fai, e quindi forse uno dei motivi per cui ti piace viaggiare che quando sei in Indonesia o nelle Americhe lontane non ti possono chiamare i familiari e dirti dove vai e che fai. La mia stessa perché sono cose che volevo fare da giovane e non ho potuto farle e le riesco a fare ora. Perché vado via da sola? Perché ho preso coraggio, nel senso che vado via anche in periodi che sono meno costosi e le altre persone lavorano, e poi è stata una sfida con me stessa, non vado via comoda, nel senso che non vado all'avventura. E ti dirò che mi piace da morire, guarda, perché io ho la passione della fotografia. Quando sono là, l'importante è che abbia un ombrellone, una palma e il mare davanti, mi riempie il cuore, guarda, è una cosa che adoro. Hai conosciuto persone in questi viaggi oppure sei sempre solitario? Ho conosciuto delle persone, ma sto anche tanto bene con me, adoro tantissimo guardare il tramonto del mare con un bel bicchiere di vino, di un bel cocktail, mi piace. Sì, bere da sola, sai che tristezza. No. mi piace. A me piace. Beh, sempre meglio che starsene in cucina col tavernello, è chiaro. Un bel tramonto col bicchiere in mano. Ho la mia vita, nel senso, la mattina mi alzo, faccio colazione, non c'è nessuno che mi rompe le scatole, vieni giù, fai questo, preparati, qui, andiamo là, andiamo su. Mi metto nella mia posizione sulla spiaggia. Io amo stare al mare, è una cosa che ho sempre amato da bambina. Se abitavo in un paese non ci potevo andare. Considera che l'unica volta che finalmente avrei potuto andare al mare facendo un abbonamento, che ai tempi io abitavo vicino Urbino, e da Urbino a Pesaro sono 30 km e si poteva fare l'abbonamento di 15 giorni con la littoria. L'unica volta che finalmente la mia zia mi fece l'abbonamento, per me è una gioia, perché ho sempre amato il mare. Sono stata al mare un giorno e il giorno dopo ho avuto la meningite. Sono stata per morire, ancora me lo ricordo. L'avrei vista quasi come un segno divino che non dovevi andarci, figurati con tutto. Mamma mia, cioè, un giorno, e la mia gioia è durata un giorno e mezzo, perché il giorno successivo mi hanno dovuto portare lì all'ospedale. Beh, ci credo che poi hai avuto voglia di rifarti, di rifare dei viaggi. A parte i viaggi, come hai riconquistato la tua libertà nella vita quotidiana? Frequenti persone, hai giri, vai a ballare, fai le cose che fanno le ragazze che tu non hai fatto? Ho parecchi amici, poi ho riscoperto questa hobby della fotografia, e avrò una mostra a fine maggio qui dove abito, sono contenta, un sacco di persone che mi vogliono bene, sono circondata da tanti amici, perché sono una persona abbastanza simpatica, giocherellona, poi sono sempre, quasi sempre sorridente, non parlo poco tutti dei miei acciacchi e le mie cose, sì. Sono, cioè, a tarda età sto facendo quello che non ho fatto. Beh, a tarda età, non ti descrivere come una vecchia cadente, tarda età. Vedo le tue pagine. Sono piene di foto di te al mare in due pezzi, non è che proprio stiamo a parlare di una cariatide da buttare via. No, ancora, mi mantengo bene, mi piace lo sport, sono una persona molto attiva, nel senso che non so cosa sia la noia per me. Non mi annoio mai nella mia vita, mai. Sono sempre stata così anche da ragazza. From above, except the rain. I see he's come to me. I know the devil took my babe away. She never see the light of day. Oh, it's not like she was kicking much. I seen her smile. Just forget my forget my name. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Alessandria ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda ospedaliera nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo, hashtag sole per ospedale Alessandria. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ma hai conosciuto persone con cui ti andava di ricominciare una vita assieme? Cioè nel tuo progetto futuro, a parte viaggiare da sola, c'è la possibilità di avere un altro amore, un'altra storia, di ricominciare? Oppure... Sì, io ho una persona con cui condivido delle cose, però al momento va bene così. Io la mia casa, voglio starmene da sola, voglio avere la mia casa tutta per me e non avere vincoli. Mi rendo conto che è una bella conquista quando sei stata condizionata per tutta la vita. Sì, ma io sono migliorata molto negli ultimi 4-5 anni, sono più sicura di me stessa, ancora qualche passettino da fare, ancora. E cos'è che ti manca ancora secondo te per riacquisire la libertà di ragazza che non ti è stata concessa? Mi manca, non so se è giusto il termine, il menefreghismo. Ti faccio un esempio banale, ho la mamma che abita qua di fianco a casa mia e da sola. Vabbè, ascolta, la vai a cercare, però se tieni la mamma fuori dalla porta di casa ci credo che purtroppo ti assatanerà la vita finché viva, e questo è chiaro. Andiamo, no? Abbiamo le case vicine, per cui andiamo a prenderci sto benedetto caffè. Delle volte non ho voglia sempre di andarci in mezzo in un posto dove ci sono 30 anni così, però se non ci vado c'ho un rimorso di coscienza, c'ho la mia coscienza che mi parla, capito? Non riesco a fregarmi. Vabbè, questo te lo togli solo quando muori, scusa la crudezza, perché se la situazione è questa ce l'avrai per sempre. Hai ragione, però delle volte non ci vado, c'ho da fare cavoli miei, vado a fare un aperitivo. E ti fa sentire male se tu non ci vai. Se no, cioè, no, delle volte non ho voglia di andarci, quando non ci vado, che non posso magari per altri motivi, non ho fatto qualche cosa che mi fa stare così, ecco. Vorrei fregarmene anche di questo, non ce la faccio al momento fregarmene di questa cosa qua. Senti, tu hai una figlia, cosa fai perché tua figlia non possa un domani avere gli stessi problemi che hai avuto tu? La tieni leggera, tranquilla, distante? No, mia figlia è una ragazza molto indipendente, si è già laureata, adesso sta già lavorando a Londra, è molto indipendente, penso di essere una mamma molto, non sono un'amica, ma sono una mamma con mia figlia, sono una mamma che ascolta, le do molto affetto, lei meno. Purtroppo. Però vedi, ecco, riscatta il ricatto. Non mi vuoi bene, non vuoi bene alla mamma. Cioè, non posso che non ti entra in testa, una persona quando diventa adulta stacca i fili, se gli vuoi bene, non può essere che contenta che ti stia lontano, vuol dire che è autonoma. Chi non è autonoma? Ma sarà contenta di mia figlia, è autonoma. Molto. Cioè, il ricatto affettivo di un genitore verso il figlio è quello che stai sentendo te come peso e come colpa perché non vai a prendere il caffè con tua madre e con le sue amiche, capito? E a un certo punto il figlio si stacca, bisogna dirgli non mi cerchi mai, non me lo so perché è un dolore, lo sento anch'io questa cosa qua. Però mi rendo conto che se il figlio si rende autonomo un domani te ne sarà grato. Cioè, non mi hai fatto il ricatto figlio affettivo. Autonoma. è autonoma, e poi non la chiamo raramente, non sono come suo padre che le inonda di messia, chiamo una volta al giorno. E poi una cosa grandissima. Beh, una volta al giorno non è raramente. Beh, una volta al giorno ci si basta, se no non è che la chiamo la mattina, buongiorno, buon pranzo. Sì. Eh beh, ma è tanto, come una figlia obbligata a sentirti una volta al giorno è tanto. Ma mi chiama lei, tutti i giorni mi fa una telefonata, una videotelefonata, come stai, tutto bene? Poi quando ha qualche problematica d'amore così, sono sempre la prima a cui chiama, si sfoga, mi parla per finire. Eh sì, dalla tua enorme esperienza, fino a 30 anni eri in casa, poi state altri quanti anni, non so, col marito, pensa un po'. 20 anni. 20 anni, cioè 50 anni tua vita sei stata sottomessa a un uomo unico, cioè che gli vuoi raccontare? Sto vivendo adesso la vita, io. Poi, quindi forse ne sa più lei di te? No, la posso darle indietro, perché io poi ho vissuto questi 10 anni che me sono stata a casa, nonostante la famiglia mi rompesse le palle, le zie, i parenti. E poi ti dire di più, noi a gennaio abbiamo fatto una vacanza insieme, la seconda vacanza insieme, mia figlia. È stata una cosa per me meravigliosa, me la porterò nel cuore per tutta la vita. Dove siete state? Siamo stati in Brasile, vado tutti gli anni in un paesino sperduto del Brasile che io amo, dove non c'è nulla, se non il mare e la natura, e per un ragazzo può essere anche noiosa. Infatti, bisogna sentire lei se è stata per lei indimenticabile nella stessa maniera. Sì, sì, mi ha detto grazie mamma di questa bella avventura che mi hai fatto fare. Penso che sia stata sincera, perché lei è arrivata il giorno dopo di me, è stato bellissimo l'arrivo, l'aereo che ho visto arrivare. Poi tutti i giorni abbiamo fatto queste camminate chilometri, queste cose dove non c'è nessuno, il rito della colazione, del pranzo, pomeriggio prendere il pane in questo paese. Che c'è o non c'è, con una casa costruita o una no, e la sera parlando della vita, delle tue, è stato proprio bello, sono proprio contenta di questo, è stato un regalo bellissimo per me e credo anche per lei. Vabbè, tu adesso la tua vita, lei è la sua, avete il modello negativo alle vostre spalle, potete far di tutto per non ripetere come fosse una sorta di dannazione generazionale lo stesso meccanismo di una figlia che ancora si sente obbligata da una madre che le vive accanto e sente male se poi non va a prendere il caffè con lei. No, questo no. Questo non dovrebbe accadere. Posso dirti una cosa? Sì. Che mi è successo una volta con mia figlia quando era piccola, di darle una sberla, perché quando sei figlio, secondo me, di un padre violento, anche tu hai quel momento in cui potresti diventare violento come tuo padre. Perché tu pigliavi botte spesso? Io sì, le ho prese abbastanza. Ma botte vere oppure lo schiaffetto? No, botte vere. Quindi eri picchiato, cioè avevi un padre violento, ti picchiava, è un reato, non era proprio una cosa... aveva un padre, scusami il termine, criminale, perché ti picchiava in maniera violenta, non era proprio una cosa così, dice, lo schiaffetto, la severità è concepibile. Le ho prese con la cintura, le ho prese con il ramoscello lì, non so, cioè era un sadico, ti picchiava con la frusta. Delle volte sì. E ma scusa, tua madre in tutto questo che parte prendeva, che faceva? E mia madre poveretta ha subito quello che ho subito io. Ah, picchiava anche la madre? Io non l'ho mai visto, però è stato, guarda, un padre veramente bravo in casa, però è stato un padre difficile, è un marito difficile. È difficile, ma io capisco perché questo eufemismo, scusami il termine, non voglio permettermi di dire una persona difficile, uno che frustava la figlia, picchiava probabilmente anche la moglie e gli ha rovinato la vita, che vuol dire difficile? No, però le ho prese le botte, inutile che me la giri, mi ha fatto venire anche degli ematomi nelle mani. Capito, l'ematoma è un atto di violenza, cioè un atto che se tu vai dai carabinieri lo denunci e lo arrestano, cioè non è una cosa... Erano altri tempi però. No, in tutti i tempi, cioè, la lesione è lesione, la botta è botta, non è che in altri tempi era possibile. Altri tempi, c'è stato un momento in cui io sono uscita di casa, mio padre mi ha preso per i capelli fuori dalla porta, mi sono presa il capo e dico, avrò avuto 15 anni, vado via, non torno più. E dopo lui mi ha riportato dentro. Guarda, sono stata fortunata perché non sono caduta nel cerchio della droga, perché sono sempre una ragazza. Prima del cerchio della droga bastava uscire dal cerchio dannato del padre che ti picchiava, forse. Ma fammi capire, La vera autonomia è quella economica. Se tu avessi avuto un lavoro e un'attività economica subito, che potevi uscire di casa, saresti stata libera, oppure comunque rimanevi sempre soggetta, visto che ancora tua madre, che bene o male è stata vittima, ma allo stesso tempo complice, perché una madre che vede picchiare i figli e non fa nulla. Non voglio entrare nelle dinamiche, ma non è manco una cosa, in fondo, cioè vedi un padre che picchia una figlia e non puoi far nulla, non puoi. Eravamo un po' tutti terrorizzati in quella casa. Sì, ho capito, terrorizzati, sì. Non è che vivevamo, che era il 1500, che c'era il diritto di vita o di morte sui figli, cioè ancora esisteva la possibilità di denunciarlo un padre violento che picchiava. Come tell me your story to unload your glorious grief. You are the valet of honor and I am the thief. Don't ever mention the stains that you left on my track. How from a beautiful girl I became someone ruined and wrecked. It was all in your back. Spin in the dance of your absence and put on a show. But why do I smile, baby? You of all people should know. The one that you loved died a long time ago. You can do me wrong with charity. Remedies you will, but with your voice. noi signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Non gli è mai venuto in mente di dirlo fuori? No. C'era un segreto in famiglia che c'era il padre che vi menava? No, sapeva anche, era conosciuto mio padre per uno nervoso, così... Mi dispiace anche dire queste cose. Senti, cambiamo argomento, perché sennò però capisco, era una situazione che in qualche maniera complica la vita di un essere umano. Quello che dicevo, ho dato una sbella a mia figlia, ho detto non voglio fare questa cosa, da quel giorno non l'ho fatto più e non ho più alzato una voce, mai detto una parola fuori posto. Questo sono d'accordo, sennò a catena l'effetto non si estingue mai, capito? Uno deve avere forse pietà, comprensione per le vecchie generazioni, non hanno nemmeno forse gli strumenti totalmente raffinati come ci abbiamo oggi per capire cosa ci sia all'origine certi gesti non vanno fatti. A sua volta magari veniva fuori da una famiglia in cui era normale fare quello, sai, sono trasmissioni familiari. Dei tuoi nonni hai ricordo e memoria? Sì, ho ricordo dei miei nonni, della mamma di mio padre che era molto buona e anche dell'altra mia nonna. Ho avuto dei nonni molto buoni, sì. Ma anche nonni maschi o solo? Nonni maschi uno, però ero proprio piccolino, è morto che ero una bambina. E non te ne parlava mai tuo padre, dei suoi genitori? Sinceramente non mi ricordo, no. No, era per capire se c'era una sorta di trasmissione tra le generazioni di questa gestione, diciamo, autoritaria, usiamo questo termine, nei confronti dei figli. Non credo però che la famiglia di mio padre sia stata una famiglia un po' autoritaria, no. La mia nonna proprio ha avuto 4 figli buoni, mio padre era quello che era più il nervoso di casa, ma è anche quello che ha aiutato sempre tu. Quindi aveva delle doti comunque, a parte questo aspetto, questa parte oscura. Sì, mio padre mi ha aiutato tanto, tantissime cose, era un uomo che sapeva fare tutto. Un uomo che per gli altri si è spaccato in 4. Quindi forse probabilmente era stato educato con l'idea molto arcaica che per il bene di una figlia occorresse essere molto rigorosi, diciamola così, non era un cattivo, lo faceva perché così era stato abituato. Non, sì, secondo me sì. Non si era aggiornato ai tempi, non aveva capito che il tempo era cambiato. Anche con mio fratello è stato, però meno di me, nel senso che lui poteva uscire. È stato violento anche con mio fratello a parole, però sai, un maschio si salva sempre meglio da queste cose, diciamo è il bersaglio più distante che subisce meno danni, colpito più, in maniera più superficiale, secondo me. Non lo so, fra un maschio e una femmina, se c'è un problema simile in famiglia, il maschio riesce a svicolare, a salvarsi, e anche più strumenti, capito? La femmina rimane impastoiata, anche perché il maschio forse prima raggiunge l'autonomia, poi un uomo, poi non c'è tutto il pregiudizio dei rischi classici biblici che corre una donna, quindi alla fine lui era preoccupato che tu ti mantenessi probabilmente nel rigore che lui voleva per una figlia, addirittura morale, tutte queste cose che hanno sempre rappresentato il cemento esteriore di una famiglia. Però sai, evidentemente ti ha dato anche gli strumenti e gli anticorpi per salvarti, perché se a un certo punto hai riacquistato la tua libertà, questo ce l'avevi dentro comunque. È vero, io sono una persona molto forte, forse tutto questo che ho vissuto mi ha reso forte. Come l'addestramento dei Marines, capito? Che esatto. Gli fanno passare attraverso prove terribili, cerchi di fuoco, li maltrattano, li calpestano, ma dicono così almeno vi salvate la vita. Alla fine forse era il suo addestramento del Marine per la figlia. Esatto, vorrei che questi ultimi anni di libertà non finissero più, perché non l'avevo avuta. Vabbè, però considera una cosa, stai vivendo adesso al 100% quello che una persona normale si vive al 10% del suo tempo, quindi mi sembra di aver capito, è una vita molto tranquilla, libera, spensierata, puoi decidere del tuo tempo al di là dei tempi liturgici del lavoro. Se tu adesso domani ti gira l'anima, a parte il momento, e prendi e parti, puoi prendere e partire, non è che tutti possono permettersi questo. Sì, esatto, potevi prendere e fare. Quindi capisci, vivi intensamente quello che gli altri hanno diluito in una lunga vita, il risultato finale più o meno è lo stesso. Se la vedi così ti deprimi meno, forse, capito? No, adesso io non sono depressa. Vabbè, hai meno sensi di rimpianto sul passato, sì. Hai avuto un'infanciullezza, un'infanzia, un'adolescenza compressa, indubbiamente. Una vita matrimoniale, hai fatto un figlio, meno male, ha avuto un suo proseguo che probabilmente non ti faccia sentire libera, ma è difficile sentirsi liberi in un rapporto di coppia, cara. C'è sempre qualcuno che comunque pone dei limiti alla tua libertà, se no uno non andrebbe a vivere insieme a una persona. E intenta non faccia per te questo, è facile capirlo. C'è chi in fondo fa un'analisi costi-benefici, dice, beh, però tutto sommato stare soli è peggio. Tu invece hai capito che stare soli è meglio, quindi è la possibilità di farlo, sta contenta, perché tu pensi dovevi dipendere comunque da un marito perché tu non avevi autonomia. Non mi dipendo da nessuno ormai. Beh, vuol dire che c'è un'indipendenza anche concreta, sai, perché... Fortunatamente, sì, è arrivato tardi, però... il mio momento è arrivato. Ci sono persone per cui non arriva mai, per te è arrivato tardi, è arrivato, quindi ti lascio perché per me è arrivata alla stazione di destinazione con questa idea che di solito non è da me. Guarda, io lascio sempre dei macigni nel cuore degli altri, però tutto sommato guarda che hai avuto abbastanza culo per poter continuare a rimanere sempre sotto un marito, sotto un padre, sotto una famiglia. Sì, c'è la mamma con Pipalli vicino, però sai, tu ti prendi un biglietto e parti e ne stai via 2 settimane, ma che ti importa te del caffè delle vecchie. Dai, buon viaggio, ciao. Grazie, ciao Gianluca, ciao, grazie, ciao. No, mi olvides che io me muero.